Passano le giornate, faccio X sul calendario e lo trovo ogni giorno più antipatico. E le mosche continuano a girare il lampadario senza scopo. Io le guardo, non le critico. Passano le giornate, faccio X sul calendario e mi sento ogni giorno più ridicolo. Ma il giornale di ieri che mi passa tra le mani, occasioni che ritroverò domani. Fatto un buon lavoro, perché non rimanga proprio niente. Mi son dato un grande affare, ora c'è troppo spazio dentro me. Sei romantica, portami dei fiori un'altra volta. Vita, tu che sei fantastica, fammi ritrovare ancora la luce dentro gli occhi che mi annoia. C'è dentro gli occhi che mi annoia. Hanno fatto un buon lavoro, perché non rimanga proprio niente. Mi son dato un grande affare, ora c'è troppo spazio dentro me. Sei romantica, sei romantica, portami dei fiori un'altra volta. Vita, tu che sei fantastica, sei fantastica, fammi ritrovare ancora, fammi ritrovare. C'è dentro gli occhi che mi annoia. Dentro gli occhi che mi annoia. Del profumo di una rosa. La luce dentro gli occhi che mi annoia. Gusto del profumo di una rosa. La luce dentro gli occhi che mi annoia.